Ci sono vari progetti che come Pirata stiamo portando avanti in Messico e poi c'è chi va e chi viene, ritorna, facciamo le iniziative come quella di oggi per autofinanziare alcuni progetti. E poi soprattutto una questione che ci sembra importante è quella di portare sia in Messico le lotte che in Europa o in Italia o rispettivamente dove i vari collettivi si trovano in Messico e anche le lotte che dal Messico stanno portando avanti là, portarle qua e diffonderlo e creare fondamentalmente dei punti che possano essere di solidarietà, di solidarietà attiva, di partecipazione diretta, che si possa creare anche un'affinità, una complicità tra tutte queste lotte. Questo, la visita di Nacho Del Valle e di Caio Vicente che è stata organizzata durante un incontro internazionale europeo che abbiamo fatto a Parigi l'anno scorso a gennaio, in cui si è deciso appunto di provare a portare i due compagni di Atenco. Atenco, come è stato ricordato nel video, è stata probabilmente una delle più grandi vittorie di inizio 2000, in cui sono riusciti comunque a impedire la costruzione dell'aeroporto ad Atenco, dell'aeroporto internazionale di Città del Messico ad Atenco, quindi probabilmente una delle più grandi vittorie che loro poi hanno pagato a caro prezzo, con appunto due morti, una repressione molto forte, molto grande, e che poi, nel senso che nei video che poi abbiamo presentato prima, si vedeva come questo aeroporto stanno comunque continuando e cercando di farlo su quelle terre. È stata presa la decisione appunto di portare due compagni di Atenco, è stata fatta una gira, un recorrido, come si dice, un giro in tutta Europa più o meno, in cui anche lì c'è stato comunque uno scambio tra i vari collettivi francesi, tedeschi, sono stato in Turchia e poi in Kurdistan, nel momento in cui anche stava succedendo tutte le grandi manifestazioni ad Istanbul contro la costruzione del parco, la distruzione del parco, e anche loro sono stati molto. È stato bello vedere come anche in tutte queste tappe che loro hanno fatto, dalle piccole realtà, quindi dalle cooperative di autogestite agricole, agli spazi sociali, ai centri sociali, alla questione chiaramente della Valsusa, di Notre-Dame-des-Landes in Francia, sono stati a Stoccarda contro la costruzione sulla questione della costruzione della stazione del treno ad alta velocità. Sono questioni che loro personalmente sono stati molto toccati, e anche la serata in Valsusa un pochettino si vede lì, ma è stata una serata molto densa, molto, molto importante, in cui loro, e anche nella visita al cantiere che è stata fatta il giorno dopo, quando siamo stati poi anche fermati dalla polizia dei carabinieri arrivando davanti al cantiere, sono situazioni che anche loro hanno visto molto forti e sono stati molto toccati. E quindi tutto questo aspetto loro penso che saranno tornati in Messico anche riportando un pochettino tutte queste lotte che in Europa stanno succedendo. Poi noi come Pirata abbiamo partecipato in Messico anche a momenti di discussione dei movimenti messicani, soprattutto delle comunità indigene, quindi tutto questo di questa rete che si sta creando un pochettino attorno al movimento zapatista, però non solo, e quindi la lotta contro tutti questi grandi progetti che vorrebbero imporre in vari stati della nazione Messico. E abbiamo partecipato ad alcune assemblee in cui i vari popoli indigeni si trovavano, giustamente cioè per analizzare la questione della costruzione delle grandi opere, e quindi abbiamo portato che in Messico vorrebbero costruire dalle miniere alle autostrade, alla via di comunicazioni, alla privatizzazione dell'acqua, e abbiamo portato anche la testimonianza di quello che sta succedendo qua, e quindi sia la lotta in Valsusa, però anche la lotta per la difesa degli spazi sociali, la lotta di quelli che sono finiti in carcere comunque rispetto alle mobilitazioni che ci sono state qua. E quindi abbiamo cercato di portare appunto questo scambio, queste due visioni che molto spesso, soprattutto magari anche nella questione indigena, non sono conosciute, e comunque è difficile anche da portare quella visione che magari noi stiamo portando avanti qua. E ci sono stati degli scambi anche molto belli, anche molto interessanti, rispetto a tutto quello che sta avvenendo. Poi chiaramente i compagni che poi magari vanno in Messico, vanno da altre parti, arrivano da varie parti del mondo e quindi ci sono proprio questi scambi e queste, sì, questo aspetto di reciprocità in cui si cerca di confrontarsi sulle lotte e si cerca di costruire qualcosa anche secondo delle affinità che si creano, delle condivisioni di spazi, ed è quello che un pochettino anche noi come Pirata abbiamo voluto fare quest'oggi e che poi magari faremo in altri momenti rispetto appunto a questa importanza che noi pensiamo rispetto alla solidarietà di base, rispetto alla solidarietà chiaramente internazionale, perché poi noi in questo senso nello specifico lavoriamo sul Messico, però cerchiamo di essere attivi chiaramente poi nei nostri collettivi, nelle nostre situazioni, anche sulle questioni locali e su quello che chiaramente sta succedendo qua. E quindi questo voleva essere magari un invito a una discussione, volevamo appunto stimolare una discussione su questo concetto di solidarietà che magari, non so, a volte sentiamo magari una rottura rispetto a quello che si sta creando qua e tutta la repressione che comunque ci sta anche cadendo addosso e la capacità o magari a volte l'incapacità di creare dei legami di solidarietà o delle mobilitazioni che possano essere, ad esempio in Messico si vede, una questione che a me mi ha sempre abbastanza toccato, è la capacità di coinvolgere un'ampia società, un'ampia parte di movimenti che magari non sono legati specificamente a un certo tema, che però si riescono a creare questi punti di partecipazione e di unione solidaria rispetto alla difesa di certi territori e soprattutto rispetto all'attacco che sta avvenendo anche lì sulla questione della distruzione, della devastazione, del saccheggio dei territori. Sì, allora uno spunto, un attimo, una riflessione che avevamo fatto per questa giornata, vabbè, che comunque è una giornata di festa, insomma, anche se a noi magari non ci piace fare solo la giornata di festa, dato finanziamento e finirla così, senza magari né raccontare perché stiamo qua, né comunque condividere, insomma, con tutte le compagne e le compagne che hanno partecipato alla giornata, insomma, un po' dei contenuti. Una riflessione che stavamo facendo appunto sulla questione della solidarietà internazionale dal basso, poi le domande che noi condividiamo con voi sul nostro percorso, alla fine poi è questa la questione che ci preme fortemente, no? Abbiamo visto che fondamentalmente a livello di solidarietà internazionale noi ci poniamo delle domande perché alle volte abbiamo dei limiti. Un limite, ad esempio, spesso l'abbiamo visto sulle questioni che riguardano il Messico per quanto riguarda la mobilitazione. Cioè fondamentalmente succede qualcosa, c'è l'attacco, no? La logica un po' dell'emergenza, no? Questa è un po' la cosa che un limite su cui ogni tanto ne ragioniamo, no? Cioè il fatto che facciamo, andiamo all'ambasciata, andiamo in cinque, apriamo lo striscione, ci facciamo una foto, no? Una cosa del genere. Quindi un po' il ragionamento che vogliamo fare è superare sia magari questa logica che comunque, cioè, è necessaria alle volte, perché comunque l'emergenza c'è in molte occasioni, no? Sia ovviamente superare la logica che comunque diamo per scontato che magari altre realtà che sono qui presenti oggi, altri compagni comunque non condividono, che è quella dell'assistenzialismo internazionale, tutta questa questione di ONG, fra virgolette, insomma, che a noi non riguarda assolutamente. Noi abbiamo avuto due spunti principali per iniziare questa riflessione. Il primo spunto è stato quello dei progetti di devastazione del territorio. Cioè fondamentalmente abbiamo partecipato, come diceva Tazio prima, abbiamo partecipato ai percorsi dei movimenti messicani per quanto riguardano le mobilitazioni contro le devastazioni dei territori, quindi partendo da Atenco, però riguarda lo stato di Oaxaca, anche in Chiapas sono particolarmente presenti nell'ordine del giorno dei movimenti e siamo rimasti parecchio colpiti da questo, probabilmente perché non lo davamo per scontato, però rimane il fatto che non è vero che tutto il mondo è uguale, non vogliamo dire questa cosa, non è che tutti i territori hanno la stessa reazione, hanno le stesse dinamiche, però comunque spesso e volentieri il linguaggio che il potere parla nei confronti dei territori è lo stesso. Cioè il progetto di imporre una TAV in Val di Susa, come il progetto dell'imposizione del parco eolico nell'istmo di Huacaca, come l'autostrada fra San Cristobal e Palenque, alla fine è lo stesso, cioè i linguaggi che utilizzavano, la promessa del lavoro, la promessa della famosa modernità, tra virgolette, no? Come può essere in Val di Susa, la promessa di investimenti nel sociale anche per quanto riguarda le comunità locali, fondamentalmente hanno delle similitudini sotto molti punti di vista, e questo è fondamentale perché la nostra idea è quella di cercare di creare dei ponti fra le lotte, no? Anche per rafforzarle sia qua che là, sia le nostre esperienze qua, perché non è che magari ce lo facciamo del lavoro essere della piattaforma pirata, però probabilmente ognuno nella nostra quotidianità come compagno o compagna comunque segue anche dei percorsi qua, che può essere in Svizzera, in Italia o Berlino per gli altri che stanno là, e li condividiamo assieme dall'interno di questa della nostra assemblea, e due, comunque sostenere i progetti di resistenza a determinate politiche che ci stanno anche dall'altra parte del mondo, in Messico. Questo è il primo punto. Il secondo spunto è quello dei prigionieri politici, che fondamentalmente è un altro linguaggio comune che purtroppo subiamo qua a Roma, l'abbiamo visto con il caso di Lander. Noi lavoriamo parecchio con i prigionieri politici rinchiusi nel carcere di San Cristóbal de las Casas, soprattutto con il prof. Patistán, che purtroppo ancora sta in carcere. Per fortuna ci sono state diverse vittorie, per cui 11 dei nostri compagni che erano in carcere attraverso le mobilitazioni sia statali che internazionali sono stati liberati qualche mese fa, fra quella compagna Rosa, che era l'unica compagna che era in carcere all'interno di questo gruppo di prigionieri politici, di cui siamo riusciti fortunatamente attraverso la radio, l'appoggio di Radio Onda Rossa, insomma di tante compagne e compagni, a diffondere insomma il caso qua. Quindi insomma due spunti di partenza per noi erano questi, no? La questione della repressione, la questione dei prigionieri politici, come la questione dei grandi progetti di devastazione del territorio. Cioè due spunti di riflessione per iniziare un ragionamento sulla solidarietà internazionale che venga visto in maniera diversa. Non è solo la guerra, non è solo l'impatto, l'emergenza, ma è il condividere percorsi con altre realtà di lotta in altre parti del mondo e rafforzarci a vicenda. Microfono libero, insomma, riflessioni. Allora, oltre i tamburi, quindi. Vabbè, io colgo più o meno insomma lo spunto de Sandro per provare a mettere in mezzo un pochino di riflessioni che alcuni insomma abbiamo fatto singolarmente, altri magari collettivamente, in parte con Free Palestine, che è una piccola realtà delle tante che si muovono cercando di costruire pezzetti di solidarietà e complicità nelle lotte. E sicuramente io ero rimasto un pochino impresso, comunque volevo prendere come spunto la conclusione della seconda canzone che cantavano i compagni, nel senso che concludendo cantando per la libertà dei prigionieri politici, parlava dei prigionieri politici baschi, dei prigionieri politici palestinesi, mettendoli anche appunto sullo stesso piano. È troppo semplice mettere sullo stesso livello le varie lotte, i vari territori e le forme di resistenza che si sviluppano, però è necessario costruire pezzetti di connessione, quindi questo tentativo forse di stasera è anche riuscire a riflettere insieme tra piccole realtà che ognuno a modo appunto con le difficoltà che abbiamo, con le mille altre cose che facciamo in quanto attivisti e militanti nei nostri territori e difficoltà che incontriamo, perché troppo spesso il lavoro che alcuni che si fa come compagni e compagne che seguono lotte che sono migliaia di chilometri di distanza da casa nostra è di rischiare di diventare gruppi di specialisti, cioè quindi addetti ai lavori che appunto quando c'è qualcosa siamo sempre i soliti sparuti gruppetti di persone che si mobilitano facendo qualcosa di simbolico e si rischia quindi a volte di essere anche osservati anche dagli altri compagni e compagne che portano avanti lotte nel quotidiano come quelli che fanno questa roba, quelli che si occupano della Palestina, quelli che fanno il lavoro sul Messico, chi segue il lavoro sulla Colombia e quant'altro. Mentre il tentativo che facciamo anche nelle iniziative che attraversiamo, nei momenti di dibattito che vengono costruiti, è sempre quello di riportare, appunto adesso parlo, mi è difficile pure distinguere tra questione messicana, palestinese, il paese basco, nel senso che poi alcuni di noi sono attivi anche in più di un ambito, insomma. Però appunto parlare di Palestina per noi vuol dire sempre riportarla a quello che facciamo qua a casa nostra, quindi uno dei tentativi, che non è sempre ovvio, non sempre viene colto con chiarezza e semplicità, è quello di parlare di Palestina facendolo a casa nostra, facendolo legando la Palestina a quello che facciamo noi nel quotidiano. Quindi parliamo di Palestina in quanto sì antisionisti, perché la questione del sionismo è una questione che si sviluppa in quel territorio in maniera unica, no? E per l'aberrazione che ha sviluppato nei decenni in quel territorio, in quel pezzo di terra che è la Palestina storica, che oggi non è più riconoscibile. Però cerchiamo di parlare di Palestina in quanto antirazzisti e antifascisti, quindi riportando anche, a volte senza forzare troppo il linguaggio, però riportare anche a quello che è il nostro modo di leggere la quotidianità qua, cioè far capire perché è importante parlare di Palestina a casa nostra, no? Usiamo spesso questa frase che diceva Vittorio, perché la Palestina può essere anche dietro l'uscio di casa. Ed è rispetto a questo che cerchiamo spesso, sempre, di ricostruire pezzetti di ragionamento, pezzetti di complicità, pezzetti di esposizione del sionismo nelle mille ramificazioni che trova, che sono attraverso l'occupazione delle terre, che sono attraverso la sperimentazione di tecnologie dell'oppressione. Quindi in Val di Susa ritroviamo il filo spinato che è stato ideato, insomma, in Israele, che esportano in Messico per costruire la frontiera, per costruire il muro tra Messico e Stati Uniti, che sta in Val di Susa per portare, appunto, per cercare di bloccare l'attività dei compagni che vogliono attaccare il cantiere. Mi dicono qualche compagno che è stato a Niscemi che quello stesso filo spinato adesso è già arrivato giù a Niscemi nelle basi americane. Ce lo confermo, insomma, che c'è stato. Quindi a volte anche partire da piccole cose ci può permettere di parlare, appunto, parlare di Palestina, perché la Val di Susa è la nostra West Bank, è il posto dove si vede la costruzione del muro, la militarizzazione del territorio, i checkpoint, che sono quelle forme di controllo che si espandono da oltre il cantiere e vanno, attraversano la valle, attraversano i sentieri della foresta, e quindi attraverso l'esperienza delle lotte che attraversiamo qua cerchiamo di portare i contenuti o le lotte che si vivono più a distanza. Questo perché appunto poi non è mai dato per scontato, no? Chi è attivo nelle proprie città, insomma, qui in Italia, qui a Roma, ognuno nelle città dove si muove, perché si muove nelle università, i collettivi studenteschi, perché si muovono per l'occupazione di casa, chi c'ha un problema legato all'abitare, per le mille questioni che attraversiamo quotidianamente, è difficile trovare energie sufficienti per dare lo spazio che sarebbe in qualche modo, tra virgolette, necessario e dovuto per dover parlare di cose che sono lontane da noi ma che ci dovrebbero riguardare. Che, come dicevano i compagni messicani, se si vince da Tenco è un pezzetto di vittoria che costruiamo per anche qui a casa nostra. Come diciamo qua, se si vince in Val di Susa vinciamo tutti, se perdiamo là in valle perdiamo anche noi qua a Roma, nel senso che quindi anche su questo costruire forte connessione, i ponti e connessioni tra pezzetti di lotta che si danno in giro è un tipo di lavoro sempre, spesso non facile, appunto, spesso sembra relegato a, veramente, come dicevo prima, a pochi addetti ai lavori, o che sembrano affascionados della causa palestinese o della causa basca o di quant'altro. In realtà è il lavoro che dobbiamo fare collettivamente, ognuno nelle proprie attività, e cercare di rompere pure un pochino, no, la settorialità delle lotte, che non devono riguardare i compagni che vanno in Messico, perché la questione dello zapatismo dovrebbe, cioè, riguarda tutti e tutte anche qua, perché è uno dei pezzi dove un territorio dove si sviluppa autogoverno, e quindi un esempio che ha valore seguire qua, senza dire diventiamo tutti zapatisti, perché, cioè, non vuol dire niente enunciandolo così, ma capire in che forma lo zapatismo può trovare pratica quotidiana nei nostri territori, in che forma la resistenza della Val di Susa ci può dare un esempio di come migliorare le dinamiche per i processi di resistenza che si costruiscono qua. E altre cose che facciamo adesso, sto andando pure un pochino così random, nel senso che altre cose che per esempio cerchiamo spesso di valorizzare sono la collaborazione e di quindi svelare e palesare, che ci permettono di parlare di lotte relativamente distanti, e poi ci accorgiamo che sono molto vicine a casa nostra quando andiamo a guardare gli accordi tra paesi, gli accordi commerciali, le ditte che speculano nei territori di occupazione, di conflitto, nei territori di guerra. E per esempio nel lavoro che si fa come internazionali legato alla resistenza, insomma alla lotta della popolazione palestinese, la campagna di boicottaggio è uno degli strumenti che spesso ci permette di appunto parlare della lotta della dignità della popolazione palestinese, della lotta di chi resiste da più di 60 anni a un'occupazione militare, coloniale e religiosa. Ci permette di farlo attraversando i nostri spazi di intervento, che sono appunto l'università, quando i compagni delle università cercano di interrompere la complicità tra le accademie, perché appunto l'accademia non è uno spazio neutrale, sono anzi spazio dove si costruisce opinione, dove si costruiscono intelligenze collettive, e sono anche spesso i luoghi dove si insinuano e poi le collaborazioni di uno Stato come quello israeliano, quello sionista, che cerca di fare della propria immagine il punto forte nella propria legittimazione a livello internazionale. Quindi intervenire quindi a livello di appunto universitario con i compagni che sono studenti universitari, che però appunto sono contro la guerra come sono contro le economie della guerra, e quindi le ditte, le aziende, le grandi ditte parastatali italiane, insomma, che poi speculano e vivono nei conflitti, nelle zone di conflitto. E quello può essere un esempio. L'altro esempio sono appunto a volte riuscire a parlare con la signora sotto casa quando va a fare l'azione di boicottaggio dei prodotti agricoli che vengono dalle terre sottratte ai contadini palestinesi, rimesse a profitto dalle grosse aziende multinazionali israeliane, con prodotti che poi vengono inseriti nel mercato internazionale come prodotti anche di una certa qualità, perché Israele per esempio punta molto sulla propria immagine, in quanto no, per l'avanzamento della tecnologia, per quello che rivendono come no, l'esempio di chi riesce a riportare il verde in zone desertiche. E noi cerchiamo di raccontare quella che è l'altra verità, la storia che vivono uomini e donne tutti i giorni, cioè della sottrazione della terra, del furto delle fonti d'acqua, della contaminazione dei terreni con acque di scarico che vengono dalle colonie illegali. Quindi gli strumenti sono molteplici, appunto la campagna di boicottaggio è un pezzetto. L'altro pezzetto è cercare chiaramente, come fanno i compagni che vanno in Messico, è di attraversare i territori che andiamo a sostenere, capendo poi però che in alcune situazioni può avere senso ed è possibile avere una presenza continuata nel tempo che ti permette di avere un monitoraggio, di interagire politicamente con le realtà che sul posto si trovano, ma che in situazioni come quella palestinese ad esempio non è sempre molto semplice, perché è un territorio dove l'internazionale, a parte chi attraverso la cooperazione internazionale, quindi la cosa che diceva prima Sandro importantissima, insomma attraverso chi con la cooperazione internazionale attraversa quei territori diventando un altro pezzetto di occupazione, quindi anche lì l'importanza di costruire pezzetti di solidarietà che siano veramente dal basso auto-organizzati, che siano il più possibile distanti dalle istituzioni statali, anche se poi va lì e ti ringraziano in quanto italiano, poi però gli dai modo anche, hai anche modo di scambiarti opinioni e spiegargli che per noi l'Italia insomma non è nient'altro che uno Stato-nazione inventato come tutti gli altri, e che quindi la solidarietà vera la portano, non la portano i paesi ma la portano i compagni e le compagne. Quindi l'importanza come internazionale è andare lì, cercare di attraversare quei territori, appunto, però come dicevo in Palestina spesso non è possibile, o lo si può fare a brevi periodi o lo si può fare in forma di in periodi, cioè ritornando sul posto, però la presenza degli internazionali che veramente costruiscono pezzetti di solidarietà è vista molto scomoda, perché dà veramente fastidio, e lo osserviamo, ma cioè in questi giorni vedendo quel pezzetto di complicità che si costruisce tra la West Bank e la Val di Susa, quando dei compagni in un campo profughi decidono di fare un murales scrivendo No Tav, No Wall, e sulla stampa di Torino, sulla cronaca di Torino, si trova il campo profughi di Haida, che è un campo profughi nella West Bank, come uno dei luoghi dove vanno a fare i campi di allenamento i radicali militanti No Tav. Cioè a volte basta veramente molto poco per anche fare paura al potere, perché in realtà quello di cui hanno paura è proprio che le complicità diventino reali e che marciano, che possano viaggiare su canali diretti tra chi resiste qua e chi resiste in altri territori. Quindi e su questi spazi di interazione cerchiamo di insistere. facendolo sempre con l'importanza di capire che devono diventare mai internazionali che vanno a portare la solidarietà o che vanno a dire quanto siete bravi che resistete, ma valorizzando sempre lo scambio che c'è tra le situazioni di lotta, nel senso che noi non viviamo un'occupazione militare sionista, ma viviamo la militarizzazione dei territori, viviamo vecchi e nuovi fascismi che occupano le strade, le sedi, le poltrone del potere, e raccontando le nostre esperienze rafforziamo anche i legami che poi fanno crescere appunto la complicità, la rendono una cosa reale, insomma, che non è solo enunciata ma che è pratica quotidiana. E appunto questa triangolazione poi tra le varie lotte, la cosa che noi vediamo appunto tra la Palestina, il Paese Basco e l'Italia, perché magari sono spazi di interazione, quindi quando c'è l'Under è stato bevuto qua e in West Bank i compagni scrivono, hanno fatto i murales pure là, quando il compagno basco è stato st'estate a un campo di lavoro e è stato fermato durante una manifestazione e deportato, nel Paese Basco si costruivano mobilitazioni di solidarietà, chi è rimasto là in Palestina faceva il murales, che sembra una cazzata però è un messaggio forte, che quando migliaia di persone che attraversano come pellegrini quei pezzi di terra osservano che si parla anche di Paese Basco, si parla di Notav in un campo profughi, magari lì per lì non se ne fanno una ragione, e noi su questo che poi continuiamo a insistere. Poi appunto la questione sui prigionieri, io non voglio neanche allungarmi perché in modo che magari facciamo altri, intervengono anche altri pezzi, però la questione dei prigionieri politici è chiaro che sono questioni che ci riguardano tutti da vicino, non è sempre facile interagire con le migliaia di persone che in Palestina attraversano le carceri israeliane con un sistema che è quasi di risciacquo, di lavatrice, nel quale le persone entrano e riescono dalle carceri nell'arco della propria vita, con un livello di incarcerazione che forse non ha uguali, insomma ha pochi uguali rispetto alla percentuale di popolazione che negli ultimi 30 anni è stata incarcerata. E anche lì appunto sicuramente uno spazio di convergenza o di lavoro che si può pensare di coordinare insieme potrebbe essere quello di riuscire a ragionare sulla questione della prigionia politica, dei prigionieri politici in diversi territori di lotta, capendo in che modo appunto le diverse, sia mettendoli in connessione, come mi sembra i compagni in Messico hanno già provato a fare con i prigionieri palestinesi, ma anche mettendo in connessione le varie questioni, riuscendo appunto a evidenziare, cioè quando i compagni parlano un'iniziativa sul Messico, produrre anche dei materiali che riescano appunto a superare le singole lotte territoriali e andare oltre questa roba. Così, una cosa buttata lì, il 17 aprile è da un bel po' di anni la giornata dei prigionieri politici palestinesi, insomma è una data simbolica perché lì la lotta la fanno quotidianamente con scioperi della fame, insomma negli ultimi due anni abbiamo visto quanto tanti hanno rischiato la morte pur di interrompere il meccanismo del carcere preventivo, le detenzioni amministrative che là durano anche per decine di anni. Però quella è una data intorno alla quale, per esempio, Lander ci raccontava che un po' di anni fa i prigionieri politici baschi provarono a interagire con quella data, provando a costruire anche dalle carceri basche una mobilitazione in quei giorni. Erano gli anni dell'attentato a Madrid, erano gli anni della seconda intifada e quindi non era neanche facile irrompere nell'opinione pubblica in un momento in cui tutto quello che era Palestina o Paese Basco era terrorismo, era la prima ondata di guerra insomma, degli interventi in Afghanistan, in Iraq, e è chiaro che sono cose che si ripropongono negli anni, però appunto forse quella roba potrebbe essere qualcosa sulla quale provare a lavorare e capire se quella giornata si può rafforzare come giornata di mobilitazione per i prigionieri politici in tutto il mondo, quindi provare a capire se può avere senso, ma questa è una cosa che noi non è che abbiamo neanche una proposta specifica, però è così per portare input. Sulla difesa dei territori, insomma, la resistenza in Palestina si porta avanti metro dopo metro, la difesa della terra è quello che ancora gli permette di esistere, perché il sionismo si completa quando tutti i palestinesi se ne saranno andati da quel pezzo di terra, ed è su quello che quotidianamente però continuano a resistere. Appunto per interrompere la costruzione del muro, per bloccare l'espansione delle colonie, per bloccare anche la costruzione del treno alta velocità, che anche lì si sta provando a costruire con la complicità della Pizzarotti, una delle multinazionali appunto che interviene in territori di guerra per fare profitto, che vuole costruire la tratta di treno ad alta velocità tra Gerusalemme e Tel Aviv, quindi ritagliando, segando in due un altro pezzo di West Bank, un altro pezzetto di occupazione del completamento del progetto coloniale sionista, che vede attraverso lo stesso strumento la necessità di modernizzare le infrastrutture con un sistema lì chiaramente che è di apartheid per chi abita dentro quello che chiamano Israele e che è di occupazione e oppressione quotidiana per chi abita in quella che chiamano, insomma, che sarebbe la West Bank, che non è neanche più ormai un pezzo di territorio che ha una continuità tra un pezzo e l'altro. Quindi anche su quello, per esempio, è nata una campagna internazionale che è Stop the Train, che cerca appunto anche utilizzando anche una veste grafica simile a quella del movimento Notav, cerca di sensibilizzare su sulla questione della costruzione del treno alta velocità in Palestina, che non vuol dire bloccare il treno alta velocità in Palestina perché è uguale alla Val di Susa, vuol dire riuscire a parlare a volte con un linguaggio comprensibile di quello che è un problema ben più complesso, perché l'occupazione si sviluppa con mille sfaccettature e forme diverse. Parli del treno perché riesci a parlarne con i compagni della valle, parli appunto la costruzione del muro o la sottrazione dell'acqua perché Israele fa grande branding sull'essere appunto stato che porta i fiori nel deserto, insomma. Io mi fermerei qua, così lasciamo spazio pure ad altri interventi e interagiamo migliore, insomma, qui in modo più largo. E se c'è un'altra cosa, poi aggiungete voi. Io sono Giulia e anche io, come Marco, vabbè, animo il percorso di Free Palestine Roma. E a parte ovviamente tutto quello che Marco ha provato a dire, volevo aggiungere un paio di elementi al ragionamento per provare a innescare anche un confronto circolare fra le diverse esperienze che portiamo avanti. Anche perché innanzitutto vi ringrazio del fatto che avete scelto questa tematica per il dibattito, perché in realtà è quello che ognuno e ognuna di noi si interroga nei propri percorsi quotidiani rispetto proprio il senso di una solidarietà attiva e su come passo per passo far sì che il tutto avvenga in una dinamica orizzontale, ovvero escludendo qualsiasi principio assistenzialista e vittimista, come sempre più spesso e sempre in maniera più rafforzata nel campo della solidarietà internazionale nei confronti della Palestina si giunge a un distacco enorme, ovvero una popolazione che si vive un'oppressione quotidiana da più di 60 anni, che è sottoposta a un livello di brutalità e attacco fatto da altissime tecnologie che vengono sperimentate, a un colonialismo pressante e assassino. Ovviamente tutta la tensione della misericordia della comunità internazionale pressa sullo schiacciare la dignità delle persone, spogliarla di qualsiasi principio di resistenza e farli come poveri martiri messi lì a soffrire per qualcosa che dipende da tutte e tutti quanti. Quindi un po' la Palestina sempre di più ci costringe a dire, di fronte a attacchi perpetui che vengono fatti nei confronti di chi esprime solidarietà, ovvero sempre più impossibile andare in Palestina, e di fronte a attacchi come nei confronti per esempio dei compagni internazionali che fanno le carovane di solidarietà anche in Messico, che vengono bersagliati e uccisi, così come compagni scomodi come Vittorio vengono eliminati perché sono voci che hanno un potenziale pericolosissimo. E come possiamo muoverci? Che sbocco può avere il tipo di solidarietà? Ecco, Io personalmente credo che, analizzando sempre di più il sistema di dominio israeliano e riconoscendolo nel quotidiano, anche qui dove vivo io, penso che chi vive e anima contesti di lotta nel cuore del capitalismo, il miglior contributo che può dare alle periferie del capitalismo in lotta e in resistenza sia appunto lottare contro questo sistema di oppressione, e facendolo partendo dalle condizioni e le costrizioni in cui ci obbligano nel quotidiano, ma immaginandolo come un qualcosa che riguarda nello stesso attimo, nello stesso secondo, tanti altri cuori e tante altre persone sparse per il mondo. E quindi, secondo me, questo è il ragionamento più immediato che mi fa vedere la solidarietà in una maniera totalmente orizzontale, non fatta da uno per l'altro, ma come tutte le lotte nella stessa lotta. In questo senso, ovviamente, una delle questioni che possono essere anche estremamente tecniche per noi, fa parte della logistica, ma la questione per esempio del supporto ai progetti che vengono portati avanti dai compagni e dalle compagne in altri paesi, quando magari noi ci ritroviamo a vivere in una situazione dove, nonostante viviamo sempre di più nella miseria, siamo sempre più sfruttate e sfruttati, però comunque i soldi che riusciamo ad alzare da questa parte del Mediterraneo riescono ad avere un peso concreto nei progetti piccoli, perché non è che costruiamo chissà cosa con i nostri soldi, ma cercare di dare quel sostegno che può animare o ravvivare un progetto che è di un asilo, di un campo profughi che è nel buco del culo del mondo e che passa sui giornali di regime come La Stampa, come chissà quale nucleo di sovversivi e terroristi, proprio perché può facilmente rispondere a quella logica lì, quella che si costruisce sempre e continuamente nei confronti della Palestina, ma sempre di più nei confronti di tutta la regione del Medio Oriente. Quindi sicuramente interrogarci su questo, per chi sa che sta lottando e non sta facendo una donazione, sembra stupido, però anche l'elargizione dei soldi, di non interrogarsi dove vanno a finire, questo non ci può capitare, perché la nostra solidarietà si basa su relazioni concrete, su relazioni che tentiamo, nonostante le difficoltà, di tenere vive, e che quindi non ci fa passare per i donatori assistenzialisti, come invece passano gli stessi stati che fanno accordi economici e militari con Israele, poi sono gli stessi che destinano attraverso le ONG quelle donazioni perpetue che poi non fanno altro che cristallizzare e normalizzare quella che è il sistema di occupazione israeliano. Io non mi dilungo molto, premettendo che lo faccio a microfono aperto, non è che è un invito, un obbligo, però siccome qua abbiamo anche compagni e compagne palestinesi che fanno parte dei palestinesi in diaspora, no? Quindi sentire coloro che non possono tornare in Palestina e che però sono attivi e sostengono quella che è la resistenza palestinese, portando innanzitutto un piano di narrazione perpetuo, che è una cosa fondamentale secondo me quando parliamo degli altri contesti di lotta, quella di raccontarla in maniera continua, in ogni dove, cercando sempre di più di metterla in relazione con quello che ci viviamo intorno, e un po' sicuramente capire anche loro come ragionano, perché per me loro sono il contributo teorico pure per capire la Palestina, quali sono i sistemi di potere interni alla Palestina, saperli leggere e quindi capire pure come loro stessi si vivono questo tipo di appoggio concreto alla propria popolazione in lotta potrebbe essere interessante nel dibattito. Chiudo dicendo unicamente una cosa. sulla questione dei prigionieri politici. E Marco, cioè, ha cercato di dire come è difficile anche relazionarci noi come piccolo gruppetto di persone, che chi può e chi non può tornare in Palestina, ma comunque non potendo garantire una presenza continua, perché qualora si scelga di garantirla comunque vieni espulso, anche solo perché vai lì di frequente, hai delle amicizie, e il fatto che non abbiamo contatti con i prigionieri, che per esempio in questi ultimi 2 anni hanno animato la maggior parte delle lotte in Palestina, cioè ci sono state manifestazioni anche di 2-3 giorni a settimana fuori dalle carceri in sostegno a quelle che erano le lotte che provenivano da dentro le mura delle carceri israeliane. Quelli che si chiamano prigionieri politici in Palestina è tutta la popolazione palestinese che viene incarcerata nelle carceri israeliane. Domani qui invece in Italia si concludono 20 giornate di mobilitazione dentro e fuori le carceri contro sia il sovraffollamento, le condizioni, ma contro anche il sistema di internamento del 41 bis, del 14 bis, contro la differenziazione carceraria. Questo è un aspetto che sicuramente, cioè, confrontandoci fra di noi, parlando anche dell'esperienza in Messico, di come i compagni si sono politicizzati dentro le carceri e di come per esempio invece qui portiamo avanti una lotta contro il sistema che ti differenzia dai prigionieri comuni e ti mette in carceri speciali con totali restrizioni proprio perché sei o anarchico o comunista o vieni ritenuto un terrorista islamico. Qui da questa parte del mondo, per me il contributo, quello che si può dare alla lotta contro il carcere, sostenere i compagni e le compagne che lottano dentro il carcere, è sicuramente teorico, di scambio, cercare di capire pure come si rafforza l'idea di una lotta contro la prigionia politica, dato che nell'ultimo periodo quelle che sono le proposte che arrivano da alcuni movimenti qui in Italia sono quelle legate alla richiesta di amnistia per i reati sociali, e partendo dalla considerazione che è ovvio che in un momento dove la miseria sta raggiungendo limiti enormi e raccoglie sempre più parte della popolazione, c'è il pericolo che le persone invece di suicidarsi scelgano di alzare la testa, imprigionare chi già sta lottando è una delle forme che lo Stato può utilizzare per stroncare le gambe a chi vuole cambiare l'esistente e anche al fatto che si potrebbe allargare a macchia d'olio. Però ora come ora le carceri italiane non sono piene di compagni e compagni, e le persone internate non sono animate dalla stessa tensione, ma nonostante questo 20 giorni di lotta concreta che è rimbalzata da dentro a fuori le mura delle carceri su un piano che era più largo possibile, che poteva accomunare tutte e tutti, sono passate sotto un silenzio da brivido. E quindi questa sicuramente era una considerazione che volevo portare al ragionamento, cioè, personale. Sì, io volevo dire solo una cosa brevissima, e poi sarebbe davvero interessante sentire pure il parere dei compagni e delle compagne palestinesi. Riprendendo anche il discorso che faceva Marco, raccontare solo una piccola esperienza che abbiamo fatto quest'anno. Già da parecchi anni, se non mi sbaglio, più di 20 anni in Palestina, 20 anni se non mi sbaglio, in Palestina il 17 d'aprile è la giornata del prigioniero politico, no? In cui praticamente si cerca di concentrare mobilitazioni per quanto riguarda appunto tutto il territorio, sia di Gaza che della West Bank, sulla questione dei prigionieri politici. 10 anni dopo, nel Paese Basco si tenne una riunione internazionale in cui si propose più che altro che quella data venisse presa da vari movimenti che lavoravano sulla questione dei prigionieri politici in tutta Europa, partendo dalla questione basca, che comunque dei prigionieri politici, insomma, non ce ne stanno pochi. E, dopodiché, comunque, questa discussione si è allargata. Quest'anno, quando eravamo giù in Messico, seguivamo il mese di mobilitazione, diciamo, più intenso per quanto riguarda la questione della liberazione del prof. Alberto Patistan e di tutti i compagni prigionieri politici dell'altra campagna in Chiapas e non solo, si è deciso di riprendere pure noi questa data assieme a loro. È una cosa che a me mi è parsa fighissima, ma proprio fatto è stata che si decise in una settimana di mobilitazione dall'11 al 19, che terminava con un grande corteo a Tuxtla per la liberazione del profe, e nel giorno del 17 aprile furono proprio loro a chiederci a noi, che comunque noi supportavamo assieme agli altri compagni aderenti alla Sesta di San Cristobal, supportavamo le loro iniziative in carcere, c'era stato un digiuno e varie mobilitazioni all'interno del carcere, chiedevano proprio a noi di non dare centralità a loro e ai loro casi nel giorno del 17 d'aprile, ma nella manifestazione che si teneva nelle varie città in Chiapas, soprattutto a San Cristobal, di portare i casi di tutti i prigionieri politici al mondo che conoscevamo. Cioè, quindi in piazza San Cristobal c'erano bacheche, c'erano volantinaggi in cui si parlava di Genova del 2001, si parlava di Mumia Bujamal, che in quel momento era in mobilitazione permanente, si parlava dei prigionieri palestinesi, dei prigionieri curdi, colombiani, di Marco Kameni, cioè si parlava, no? Ed erano proprio loro che ce lo chiedevano, anche perché loro volevano conoscere altri compagni e compagne che in tutto il mondo erano incarcerati come loro, soffrivano lo stesso destino, avevano anche loro compagni al loro fianco che comunque si mobilitavano per la loro liberazione, e per loro era importante. Cioè, ora non voglio dire che il 17 d'aprile, almeno a me personalmente non mi piacciono per niente le date, i giorni del prigioniero, il giorno di questo, il giorno di quell'altro, perché non è anche il giorno che tu liberi nessuno o che comunque vinci una battaglia, perché comunque è duratura. Però solo in quel momento, cioè prendendo anche un giorno come il 17 d'aprile per diffondere i casi anche a livello internazionale, molto probabilmente, quasi sicuramente, non è che li liberi. Però comunque solo il fatto che dei prigionieri nel carcere di San Cristobal si sono sentiti rafforzati nella loro quotidianità de merda, perché è veramente una quotidianità de merda quella, vivere in un carcere dove ci stai in una cella in 9, capito, in 3 metri quadrati, e comunque ogni tanto c'è il sentore di l'abbandono alla lotta, cioè sto a fare sciopero dalla fame, forse smetto perché è dura, è veramente dura. E da parte loro il sentirsi rafforzati, perché quel giorno, per dite, Mumia Bujamal ha scritto una lettera al prof. Patistan e agli altri del collettivo in carcere, e loro si sono sentiti, capito, capito, no? O sapere che c'era anche in Italia, anche in Svizzera, anche in Spagna, nel Paese Basco, c'erano gli stessi problemi e compagni che quel giorno si mobilitavano dentro e fuori dal carcere, comunque era un valore aggiunto, e non è poco. Io porto la testimonianza del comitato Un Caso Basco a Roma, che non è nato tanto tempo fa, è nato intorno al caso di Lander, che poi è stato estradato dopo 10 mesi di domiciliari, e è stato estradato ad aprile di quest'anno, e adesso si trova nel carcere di Estremera, vicino Madrid. E, dunque, la nostra esperienza, questo comitato, è nato da un gruppo di compagni e compagne sparsi per Roma, che già seguivano la questione basca, insomma, da un po' di anni, che erano venuti in contatto con alcuni compagni che avevano scelto di denunciare in Italia quella che era la situazione di tortura e persecuzione nel Paese Basco, e che quindi già alcuni anni fa erano stati poi arrestati e estradati in Spagna. E quando ormai 3 anni fa sono arrivati qua Lander e Irati, insomma, anche attraverso di loro abbiamo continuato a conoscere la questione basca. E molti altri di noi invece hanno conosciuto Lander e Irati nelle lotte che loro hanno partecipato e attraversato nel periodo in cui sono stati liberi qui a Roma. Questo proprio un po' a significare come poi viene abbastanza naturale, semplice, no? Riconoscere nelle varie lotte di solidarietà nei paesi, appunto, dalla Palestina al Paese Basco, al Messico, a quello che facciamo noi in Italia con la TAV, che è la stessa TAV che attraversa appunto anche il Paese Basco e che trova anche lì comitati di resistenza con l'AHT, o con la stessa TAV che invece è quella della Pizzarotti che devasta il territorio tra Gerusalemme e Tel Aviv. E, insomma, attraverso la nostra esperienza, quello che poi ci è successo quando hanno deportato l'Under ad aprile è stato anche cercare di capire quello che in un anno e mezzo avevamo fatto qua, cioè parlare di l'Under era parlare della lotta di tutti i prigionieri baschi. Era un esempio, era appunto un caso basco a Roma, ma attraverso la sua storia si parlava di tante altre storie. In questo momento in Euskal Herria ci sono circa 700 prigionieri e prigioniere basche che sono sparpagliate in tutto il territorio spagnolo, con solo 15 persone detenute nel paese basco, mentre la stragrande maggioranza è sparsa tra la Spagna e la Francia. E questo vuol dire un grande accollo per un paese come il Paese Basco, nel senso che lì ci vivono 3 milioni di persone e quasi tutte vengono in contatto con la repressione, perché o la loro famiglia, o la loro classe, o la loro comitiva, o il loro luogo di lavoro è attraversato da un detenuto o una detenuta basca, e se non lo è stato adesso, comunque lo è stato negli anni precedenti. E quindi quello che poi è la risposta che noi vediamo in Euskal Herria è una solidarietà trasversale, generazionale, che va dalle persone anziane fino ai bambini che, ostinandosi a parlare euskera, la loro lingua, continuano a portare avanti in qualche modo la resistenza della cultura e della lotta basca. E, l'altra questione su cui ci siamo avvicinati, poi tra l'altro sempre parlando di repressione, perché negli ultimi anni la grande repressione in Euskal Herria avviene proprio sulle lotte sociali, le lotte ambientali, quindi centri sociali che vengono rasi al suolo con esperienze decennali di lotta, partecipazione, autogestione che vengono sradicate dai loro territori, come appunto la questione della TAV, dove un processo per una torta in faccia tirata appunto in faccia a un politico pro-TAV viene poi repressa con decine di anni di carcere, quindi una sproporzione allucinante nella repressione tra quelle che sono le lotte e le istanze della popolazione basca e la risposta repressiva. E, niente, noi tutto questo lavoro lo stiamo cercando di riportare in un blog, che è un primo lavoro di informazione, nel senso che crediamo che comunque raccontare tutto questo, raccontare i dati, le storie con cui noi siamo entrati in contatto attraverso la vicenda di Lander, è un modo di condividere e di far crescere questa lotta. Nell'ultima lettera che ci ha scritto questa settimana è Lander stesso a dirci che si scrive frequentemente con Davide di Teramo, il ragazzo bevuto a Teramo, e ci chiede invece l'indirizzo di Jimmy, perché con lui era riuscito a parlare un attimo nell'ora d'aria quando Jimmy è stato detenuto temporaneamente nel carcere di Madrid, il primo carcere dove stava Lander, a Soto del Real. Quindi in qualche modo, no, una lettera che ci arriva proprio in una settimana dove appunto ci preparavamo a questo dibattito, dove risulta facile, insomma, no, la trasversalità anche della solidarietà tra detenuti, tra chi sta fuori e i prigionieri e le prigioniere che sono dentro nelle varie parti del mondo. Quindi insomma il nostro impegno, anche se ci siamo da poco, è continuare in questo senso. Sicuramente anche l'invito di una giornata del prigioniero, insomma, non è tanto per avere una data, perché poi appunto purtroppo in ogni momento dell'anno ne dobbiamo parlare, però può essere un momento in più per unire la solidarietà in questo senso e anche la visibilità, insomma. Grazie. Ciao a tutti, mi chiamo Mamoun, sono un palestinese che vivo qui a Roma e faccio parte di un gruppo di giovani che pure stanno qui a Roma per studio, per altre cose. Allora, il discorso di prigionieri e di tenuti è molto importante in tutte le parti del mondo. Non c'è nessun doppio, perché quello fa parte, secondo noi, dalla lotta per la libertà e la lotta per la resistenza in generale. Vi posso raccontare semplicemente della situazione palestinese, perché quello che succede in Palestina succede in tutte le parti del mondo, ovviamente. In Palestina dei palestinesi che sono imprigionati, diciamo, nei carceri, nei prigioni israeliani, sono migliaia, sono quasi 10.000 persone, fra donne, uomini, bambini che nascono dentro i prigioni. Ovviamente, come qualsiasi essere umano naturale, siamo contro diciamo la filosofia o contro l'idea di una persona essere detenuta o imprigionata perché soltanto o solamente chiede la sua libertà. E quindi immaginate questo numero grosso di palestinesi che stanno nei prigioni israeliani. Alcuni per motivo sanno perché stanno lì, altri quello che chiamano, diciamo, detenuti amministrativi o detenzione amministrativa. Perché non lo sa nessuno, solo Dio e loro. Però stai lì per il momento nel loro, diciamo, ospitalità, e finché vogliono loro, decidono loro, ti fanno uscire, se vogliono farti uscire. E quindi c'è una sofferenza grandiosa, perché veramente nascono dei bambini. Ad esempio, vi racconto un po' di questioni, di casi, di storie che succedono in prigioni. Capita che la moglie sta fuori, l'uomo della famiglia sta dentro in prigione, e quindi in qualche maniera riescano a far entrare in prigione, diciamo, come si dice, non lo so, scusatemi, non lo conosco il termine scientifico, però l'esperma dell'uomo, e far diventare, diciamo, la moglie fuori, incinta. Esatto. E viceversa, perché succede alcune volte che la donna sta in carcere ma l'uomo sta fuori. Soltanto per dirvi un'idea, per darvi un'idea per quanto è diventata difficile la vita di queste persone. Normalmente che un essere umano vuole che continua nella vita lui, i suoi figli, i figli dei suoi figli e così via. Però per c'è l'occupazione e diventa impossibile. E quindi le persone si inventano dei modi, non lo so, soltanto per continuare, diciamo, la circolazione dell'essere umano. E questo da una parte. Da un'altra parte, ovviamente, escano dei prigionieri alcune volte. Una ragazza si trova adesso in Italia, però questa come un esempio. È venuta qui dopo tanti anni, dopo che è stata, diciamo, una prigioniera nei carceri israeliane, però è uscita con la leucemia, con un altro cancro, non c'ha più i denti, poi non lo so, sta di un stato di salute malissimo, sta qui verso il nord dell'Italia, e si è trovata neanche senza cura, perché il nostro problema, o il problema di questi prigionieri quando escano di malattia, perché non c'è una cura medicale, una cura sanitaria dentro le prigioni, dentro i carceri israeliani per questi prigionieri, e quindi cercano di farle diventare la vita difficile, una specie di un inferno in qualsiasi maniera possibile. Quindi sei malato, non ti mandiamo un medico, stai soffrendo, neanche pensare che tu come un prigioniere incontri o un medico ti visita, mai. Così impari a non resistere, impari a non fare la resistenza quando esci. E quindi esci di qua, sei un uomo, nel loro, diciamo, termini, sei un cittadino buono. E quindi non fai la resistenza, non fai la lotta, stai a casa, stai buono. E devi convivere con l'occupazione. E nessuno può convivere con l'occupazione se non è un pazzo, ok? Soltanto se è un pazzo, se stai fuori testa, se sei una persona irresponsabile, non ti frega niente, va bene, convivi con l'occupazione. Però una persona non è così, non può convivere con l'occupazione. E quindi questi 10.000 di persone, fra uomini, donne, bambini che nascono dentro, cioè, stanno soffrendo queste situazioni. Allora, ci chiamano tutti i giorni, si fanno degli interventi militari da tutte le parti nel mondo sotto il titolo, sotto il nome dei diritti umani. Da tutte le parti, tranne l'Israele, non si fa questa cosa. Perché? E il perché noi non lo sappiamo, spero che qualcuno lo sa qualche giorno e ce lo dice. Perché tutti quanti sono esseri umani, ma quelli non sono esseri umani, neanche animali, perché gli animali pure hanno dei diritti bellissimi, soprattutto qua nel mondo occidentale, diciamo. Un cane vive qua meglio di un prigioniero, non soltanto palestinese che sta nel carcere israeliano, no, ma qualsiasi prigioniero da qualsiasi parte nel mondo, ok? E quindi, diciamo, una cosa c'è, cioè, paradossale, vergognosa: un cane prende tutta la cura che vuole, un gatto tutta la cura che vuole, però un essere umano detenuto, prigioniere, no. Soprattutto in Israele, perché è uno stato costruito su questa idea. Dobbiamo distruggere l'anima della resistenza di questo popolo per poter stabilire tutto quanto. Alla fine, cioè, la domanda rimane: cosa si può fare? Veramente da fuori non si può fare tanto, però secondo noi, cioè, almeno si può fare, cioè, l'informazione, informare, far sapere, far conoscere agli altri che non sono vicini a questo ambiente cosa sta succedendo lì, come vivono queste persone. Perché all'inizio sono stati imprigionati, perché sono finiti lì. E quella è la cosa molto importante. Secondo noi, se riusciamo a far capire alla gente perché quelli stanno lì, perché credetemi, un sacco di persone in giro neanche sanno se ci sono persone imprigionate, perché se dice ad alcune persone normale imprigioniero, allora ti viene subito in mente, allora ho rubato qualcosa, ho gradito qualcuno, o poi non lo so, ho fatto qualcosa contro la legge. Ma non ci sono tante gente che pensano, allora ci sono delle persone oggi imprigionate per motivi più, cioè, più importanti, per ragioni molto più importanti. Io non parlo di gente che frequentano posti del genere, no, parlo di altre persone che stanno in giro, vanno per strada, vanno nei locali normali, poi non lo so. E quindi quelli sono, cioè, è importante fare l'informazione, cioè fare una media, una specie, non lo so, un'attività o un'attivazione da certa maniera per far capire queste persone, perché se noi cerchiamo o riusciamo a creare, diciamo, una opinione pubblica su queste questioni importanti. Della Palestina forse si sa un po', perché è una situazione un po' particolare, però di quelle del PASC nessuno, quelle che stanno in Messico nessuno, quelle cordi nessuno, cioè quando viene qua, cioè, diciamo, il nostro ruolo come persone progressive, persone di sinistra, persone un po' hanno capito, è qualcosa di far conoscere gli altri, altrimenti se rimaniamo nelle stanze chiuse, rimaniamo sempre nelle stanze chiuse. E rimane la storia di queste persone sempre nelle stanze chiuse, e quelli che stanno in prigione soffrono sempre pure nelle loro stanze chiuse, nelle loro celle chiuse, per dire. E vi ringrazio moltissimo. Ciao a tutti, io sono Enzo del Comitato Carlo Sfonseca. Io credo che, appunto, questa ultima frase che il compagno ha utilizzato è forse probabilmente la chiave di lettura con la quale dovremmo effettivamente calarci nel profondo del dibattito sul senso della solidarietà e della militanza internazionalista. Dico questo perché nella realtà quello che noi nel corso del tempo abbiamo verificato, constatato, vissuto sulla nostra stessa pelle come persone, come esseri umani, prima che come militanti, evidentemente parte proprio da questa dicotomia. La solidarietà non può essere esclusivamente interpretata o vissuta come, appunto, quasi come ecumenicamente parlando, una relazione di aiuto, di sostegno che parta dal basso, che parte dall'alto, questa ha effettivamente poca importanza. Ma quello che i comunisti in generale dovrebbero avere nel proprio DNA è proprio il concetto della condivisione delle lotte, della condivisione nella lotta, nella possibilità di interpretare le contraddizioni del capitale in questo e l'altro paese. Certo, non è compito mio né fare il dottorino né il professorino né assolutamente nulla di tutto questo. Parto da questa considerazione perché il prossimo anno il comitato compie, tra virgolette, 30 anni di esistenza, e in questi 30 anni abbiamo, ripeto, come dicevo prima, potuto constatare sulla nostra stessa, le nostre stesse scelte quotidiane questa trasformazione. Qualcuno poco fa giustamente diceva la miseria, no? Che oggi impera. Questa condizione della miseria cambia la percezione della storia, cambia la percezione dello scontro in atto, cambia anche la percezione della solidarietà, del concetto della solidarietà, di quanto sei disposto a mettere in gioco nel confronto, tra virgolette, con chi evidentemente sta soffrendo sulla propria pelle condizioni estremamente estremamente peggiori di quelle che noi viviamo. Noi in Italia stiamo affrontando nell'arco di questi ultimi 10 anni, ad esempio, una condizione che in America Latina in generale è vecchia almeno di 25 anni in qualche misura. Le privatizzazioni, la precarizzazione, la svendita totale, no? dei beni dello Stato. E queste condizioni hanno permesso la crescita, lo sviluppo di movimenti popolari, della radicalità popolare in qualche maniera, alla quale noi, nel bene o nel male, parlo in senso chiaramente generale, abbiamo contribuito, abbiamo sostenuto nelle forme più variegate, in una forma più o meno militante, più o meno solidale, queste lotte. Però, dico io, però sottolineo, mi arrogo, perdonatemi questo diritto, però forse proprio come Marco, se non sbaglio, diceva all'inizio, questo concetto per cui io posso contribuire, cioè io tendo a esportare, tra virgolette, solidarietà, vengo a contribuire a questo processo di liberazione perché poi sono nelle condizioni teoriche, ideologiche e materiali di rappresentare questa solidarietà diffusa, questo concetto della liberazione che in qualche maniera noi cittadini europei, mettiamola così, no? Abbiamo in qualche maniera covato nel corso dei secoli, insomma. Oggi probabilmente non è più così, cioè non ci si ritroverebbe quattro gatti all'interno di quattro stanze chiuse a riflettere sul sesso degli angeli rispetto a queste tematiche, perché probabilmente stiamo pagando lo scotto reale, pesante in qualche misura, di questo scollamento. Io credo che probabilmente la sfida che ci si presenta davanti è probabilmente quella di rompere questa visione blindata della storia, questa visione blindata dei nostri stessi processi, nel senso che rompere questo muro per noi significa in qualche misura capire che appunto la solidarietà deve fare evidentemente un salto qualitativo enorme, deve capire innanzitutto di che cosa è costituito il legame, il collante nel proprio DNA tra chi esercita questa solidarietà e le forme e le espressioni della lotta qui in Italia, in proiezione rispetto, in questo caso parlo dell'America Latina, ma insomma potremmo parlare di qualsiasi altro paese, in Palestina in primis, o nei Paesi Baschi, ovunque sia in questo senso. Dovremmo riuscire a capire qual è il collante reale di queste lotte. Ok, la TAV, siamo d'accordo, va benissimo, ma stiamo parlando di una realtà come quella italiana che sta perdendo all'incirca 2.000-3.000 posti di lavoro al giorno. E questa è la realtà, cioè questo è l'elemento significante. Cioè, ripeto, stiamo vivendo in forma ancora parcellizzata quello che questi popoli, parliamo in America Latina in senso più generale, hanno vissuto 30 anni fa, con tutto quello che ha scatenato questo processo. Facevamo un po' delle alchimie di analisi politica qualche anno fa, quando la crisi cominciava a farsi sentire in Italia, e dicevamo, non lo nascondo francamente, non lo nascondo assolutamente, che forse dovremmo studiare, abbiamo più di qualche volta fatto arrivare qua in Italia o viceversa, abbiamo visitato con gruppi eccetera eccetera il movimento dei lavoratori disoccupati, le varie fabbriche occupate in Argentina e compagnia cantando, sentendoci raccontare quello che è stata ad esempio l'esperienza dei forni popolari, dei forni collettivi, degli asili collettivi, di quartiere e così via. Io non nascondo che probabilmente noi dovremmo affrontarlo sul serio, questa condizione. Dovremmo capire oggi noi come realmente dal basso riusciamo a ricostruire questo percorso, sganciati totalmente da quello che è, tra virgolette, la politica ufficiale dei partiti, delle strutture dello Stato e così via. Come riusciamo a articolare questa solidarietà del basso che parte proprio da questo circolo oggettivamente? Cioè, non possiamo scappare da qui. Allora, io credo che intanto chiaramente saluto in maniera del tutto positiva questa riunione, questo incontro, e spero vivamente che questa sia solo una delle prime, insomma, e che possiamo in qualche misura metterci un po' di carne intorno al fuoco per poter ragionare seriamente in direzione di questo processo. Però credo che questi siano gli elementi fondanti, diciamo, di questa analisi con le quali noi dovremmo in qualche maniera affrontare la realtà dei nostri, tra virgolette, delle nostre controparti, perché credo che fino a quanto adesso esposto io credo che sia, come posso dire, lodevole è un eufemismo, insomma, cioè è un lavoro meraviglioso che le singole strutture, anche nel loro piccolo, anche nelle loro condizioni più o meno precarie, eccetera, stanno svolgendo. È meraviglioso. Il comitato sente il peso oggettivo nell'arco di questi ultimi 2 o 3 anni di un rallentamento vertiginoso del lavoro che in genere abbiamo svolto. E lo dico senza nasconderci, questo rallentamento è dovuto a questo tipo di riflessioni, a questo tipo di incapacità di sapersi proiettare in una maniera dinamica sul piano della militanza internazionalista, però rompendo questi schemi che fino ad oggi ci hanno guidato. Una per tutte, e poi chiaramente chiudo. Noi avemmo come comitato nell'arco del 90-91 una crisi molto, molto grossa. Questa crisi, guardate caso, fu data dal fatto che ci fu, insomma, la famosa sconfitta elettorale del Fronte Sandinista in Nicaragua, contemporaneamente la pacificazione, tra virgolette, in El Salvador, con tutto quello che questo poi ha generato. Una buona parte della dirigenza del farabondo Martì, che addirittura oggi collabora con gli Stati Uniti nei vari dipartimenti di sicurezza e degli studi strategici, cose allucinanti. Cioè, il sottoscritto personalmente, ho avuto l'onore, tra virgolette, perdonatemi sta medaglietta, di stringere la mano, di abbracciare, un bel dialogo con Joaquín Villalobos, massimo rappresentante del farabondo Martì, e semplicemente dopo 3 anni trovarselo come elemento di spicco della strategia controinsurrezionale degli Stati Uniti. Cioè, questo è il quadro un attimo, no? Così come poi, insomma, per non spendersi veramente ore, giorni e mesi a discutere della fine che ha fatto la rivoluzione sandinista. Però, dico, è qui che evidentemente pure in noi sono scattati una serie di allarmi, no? In primis quello di dire, ok, la solidarietà dal basso, le varie strutture, la società civile chiamata così, insomma, le organizzazioni popolari, quello e quell'altro, però guarda caso, no, tutto era condizionato da un vincolo oggettivo, insomma, intestinale, chiamiamolo così, col fronte sandinista, insomma, no? A doppia mandata, insomma, io ti do, tu mi dai, sotto tutti i punti di vista, senza fare tante giri di parole. Questo ci ha portato a una condizione oggettiva. Crolla, come si dice, il re, no? Il re diventa nudo, tutto il mondo casca a pezzi. Cioè, voglio dire, no, non è una conseguenza, diciamo, però indubbiamente ti ha lasciato un buco nero gigantesco, e ahimè non soltanto ai quattro miserelli che siamo, ma indubbiamente a un movimento a livello internazionale che si è mosso sul Nicaragua, sull'America Centrale, per anni, anni, anni, voglio dire, no? I stessi tedeschi, che mi ricordo erano un po' la punta di lancia, la testa d'ariete rispetto alla solidarietà internazionalista in Nicaragua, scrissero del loro pugno, tanto di cappello, 2 anni prima una lettera nella quale dicevano basta, noi con Nicaragua che mettiamo una croce, fine del progetto di solidarietà, di militanza, eccetera, eccetera, in virtù proprio della consapevolezza che effettivamente quel tipo di processo stava imboccando una strada senza ritorno. Però la domanda rimane a noi. Che cosa significa la solidarietà dal basso? Che cosa significa la militanza internazionalista se non si capisce che effettivamente quel tipo di processo ha bisogno, tra virgolette, di una concretezza nel processo endogeno di quel paese? Cioè, per dirle in altre parole, per farci capire senza tanti fronzoli, ma se un esercito di liberazione riesce a vanguardizzare, il termine esatto non mi viene, quel tipo di esperienza rivoluzionaria, insurrezionale e così via, indubbiamente avrà il massimo del riferimento internazionale, e le organizzazioni sociali, le organizzazioni popolari, eccetera, saranno senza dubbio, indubbiamente legate a doppia mandata a quel tipo di processo. Quindi è chiaro che avvicinarsi a quel tipo di processo significa indubbiamente stringere un legame solidale, concreto, con quei determinati movimenti e con quelle determinate strutture guerrigliere o degli stati, tra virgolette, rivoluzionari e così via. Oh, scusate. infatti, il tempo basta. Dicevo, vabbè, insomma, giustamente senza no, lo capisco perfettamente, e senza dilungarsi ulteriormente. Quindi chiudo veramente. Cioè, io credo che insomma, sul tavolo ci potrebbero essere veramente molti, ma molti, molti argomenti. Lo dico anche nella consapevolezza che in questo momento, probabilmente, senza fare il nonnetto dalla situazione, però probabilmente le esperienze più giovani possono sicuramente arricchire chi magari come noi, che appunto tutto questo tempo, eccetera, eccetera, però nella realtà si corre il rischio sempre di incartarsi un po', no? Dentro le proprie pastoie, diciamo, no? O dentro la propria esperienza, sicuri e convinti che l'unica strada, la strada maestra è quella, diciamo, no? Quindi io penso che questo scambio è vitale un po' per tutti in qualche misura, e credo che proprio partendo da questa condizione attuale che viviamo, cioè la crisi economica, ma non soltanto, sappiamo perfettamente che stiamo attraversando, possa essere, come posso dire, poi il passepartout, no, sul quale ragionare, perché se no io, cioè, c'ho poco da poco da convincere, insomma, un altro compagno che ne so io, la Palestina deve essere liberata, è russa, che la Colombia, il movimento popolare, le organizzazioni in armi, eccetera, eccetera, ottengano la vita. Cioè, raga, cioè, non stiamo qua per questo, voglio dire, insomma, no. La crisi ci dà, ripeto, i confini di questo ragionamento. Sappiamo perfettamente che non sono i 4 pelagatti quelli che riescono evidentemente a sostenere una lotta vittoriosa in questo senso, e che chiaramente questo dibattito deve essere esteso in maniera più orizzontale possibile, e chiaramente ampliando il fronte del ragionamento, ripeto, stante la condizione che viviamo, quindi chiaramente con tutti gli attori di questa potenziale crisi, insomma, no? E in primis chiaramente chi la crisi la vive giorno dopo giorno, insomma, dai disoccupati, dal precario e così via, insomma, no? Io penso che sia questo un po' l'auspicio che tra me e me mi faccio, però che credo, insomma, di raccogliere già dagli interventi che mi hanno preceduto. Grazie. Non so, mi sa che fra un po' dobbiamo lasciare la sala, e comunque ci sta pure la cena, quindi non so se ci stanno altri interventi. Noi dobbiamo andare a cucinare fra un po', tocca andare in cucina. Beh, allora, raga, se non ci stanno altri interventi, vabbè, non è che voleva essere questo oggi, insomma, un momento risolutivo per risolvere o avanzare proposte, insomma, fondamentali, solo che comunque è stato pure un bel momento, insomma, dei racconti per portare un po' di storie a livello internazionale qua durante questa giornata. Vi ringraziamo adesso della partecipazione, vi ricordiamo che adesso alle 8 inizia la cena. C'è l'estrazione dalla lotteria fra un po', quindi comprate i biglietti. C'è pure la partita da Roma qua, perché tanti la volete vedere, lo so, quindi c'è sta e la serata continua, insomma. Grazie mille.